Salvatore. E tu lo espandi il dolce fuochiarore, tu squarci il velo che avvolge l'emisfer e della valle nei nostri senesi. Thank you.